Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Appuntamento speciale con il cacciatore di libri, voglio parlarvi di un libro culto di questa estate 2016, insomma sarà sicuramente secondo me anche uno fra i libri più ricordati di tutto l'anno. Si tratta di Giorni selvaggi, una vita sulle onde, scritto dall'americano William Finnegan, che con questo libro ha vinto il premio Pulitzer per la sezione Memoir del 2016. È un libro corposo, sono circa 500 pagine, in cui Finnegan, che ora è uno scrittore, un giornalista, racconta la sua vita sul surf a partire da quando era bambino. Lui è stato un famoso surfista, il surf diventa per lui filosofia di vita e devo dire che anche chi non è pratico di questo sport viene coinvolto completamente nella narrazione. Finnegan racconta di come aveva iniziato a surfare a 10 anni in California, poi con la famiglia si era trasferito alle Hawaii e qui aveva conosciuto un altro modo di cavalcare le onde, ma aveva conosciuto anche la violenza delle bande e del bullismo. Che cosa rappresentava il surf in quel momento difficile dell'adolescenza di Finnegan? Sentiamo cosa ci ha risposto. Yes, we moved when I was 13 from California, where I grew up. My father got a job in Hawaii, and so we moved there. Ci siamo trasferiti dalla California, dove sono cresciuto, quando avevo 13 anni. Mio padre aveva ottenuto un lavoro alle Hawaii e quindi ci siamo trasferiti lì. Mi hanno iscritto a scuola e la cosa è risultata abbastanza dura. La scuola era piena di gang. I ragazzi si dividevano per etnie. C'erano pochissimi bianchi e ci si picchiava in continuazione. Non è stata una buona scuola per quel che riguarda l'istruzione, ma è stata un'ottima scuola di vita. All this time we were living at the beach. In Honolulu. Vivevamo a Honolulu, sulla spiaggia, vicino a un ottimo posto per fare surf. Io facevo surf già da qualche anno, quindi ero eccitato all'idea di trasferirmi alle Hawaii, come un sogno diventato realtà. Quando non stavo a scuola, ero in acqua, nell'oceano. Era un sollievo indescrivibile. Le onde erano diverse da quelle della California, più grandi, più belle, più eccitanti. Mi sono fatto molti amici sulle onde, 3 dei miei più grandi amici. Tutto il contrario di quanto succedeva a scuola. Era il mio rifugio dalla scuola. Addirittura a un certo punto del romanzo lei scrive che la sua infanzia è stata fatta di violenza, appunto la violenza del bullismo, ma anche questa violenza, questa forza delle onde che doveva affrontare con il surf. In che senso questa ha voluto mettere insieme questi due elementi? They're connected in my mind by the need to sort of adapt yourself to. Sono collegate nella mia testa dal bisogno di adattarmi a questa sfida in cui la violenza era l'aspetto principale, ma era di due tipi diversi. La violenza sociale ti dà emozione in modo differente. La violenza della natura, la forza delle onde, invece, era una cosa a cui io volevo essere vicino e da cui volevo farmi travolgere. Ti adatti anche in questo caso per non farti male, per trovare l'esperienza che vuoi. Però l'analogia non calza perché la violenza dell'oceano è impersonale. A scuola invece mi sono unito a una gang, quella dei ragazzi bianchi che hanno iniziato a proteggermi e non ho avuto più problemi, non facevo più a botte. Nell'oceano non c'è una soluzione sociale. Tu sei la tua unica risorsa, tu e la tua abilità nel surfare e nel comprendere quel luogo, quella parte di oceano e di costa, e come rispondere in maniera creativa alla forza delle onde. In fin dei conti, sono due cose molto diverse. Creatively respond to the power of the waves there. So, in the end, very different. Nel libro si fa spesso riferimento alla solitudine di chi fa surf. Nello stesso tempo però lei dice che si fa surf in solitudine, ma si vuole essere visti dagli altri. Cos'è una forma di solitudine narcisistica? It is, I don't know if narcissistic is the word I would use, but there is a kind of essential solitude because non so se narcisistico è la parola che userei, ma c'è una sorta di solitudine essenziale, perché anche quando ci sono altre persone che surfano nell'oceano, tu sei da solo. Ciò che fai è sotto il tuo controllo. Se sei in pericolo, nessuno ti può aiutare. Puoi fare affidamento solo su te stesso. È una cosa che dà un senso a te in quanto persona. Soddisfi qualcosa all'interno di te, ma non realizzi niente nel mondo esterno, niente di socialmente produttivo. In questo senso, non userei la parola narcisistico, ma profondamente egoista, e forse senza scopo. Allo stesso tempo, c'è un aspetto che riguarda la performance. Impari a surfare, e lo fai con un determinato stile. Sei come un ballerino. Vuoi imparare a fare qualcosa di bello sulle onde e che sia bello a vedersi. E per questo hai bisogno di un pubblico, che siano le persone sulla spiaggia o in acqua. I surfisti surfano per loro stessi. Mi imbarazza un po' questo, ma la verità è che loro vogliono farsi vedere e dimostrare che sanno surfare bene. Non vogliono farsi vedere se surfano male. È una cosa che viene tenuta quasi nascosta. Ma i surfisti godono quando la gente li guarda o li riprende in video. Ma nel momento in cui si sta surfando oppure si passa all'interno di un tubo, proprio uso dei termini tecnici che lei utilizza nel libro, è più grande la sensazione di potere, di vittoria che si ha sulla forza della natura o la sensazione di paura, di terrore? I would say, in the best conditions, what you're trying to reach, what you want to do. Nelle condizioni migliori, quello che cerchi di ottenere non è nessuna di queste due cose. In onde molto grandi, e io non surfo su quelle onde, tutti hanno dei limiti. Chi surfa su questo tipo di onde fa parte di un'altra categoria. Nelle onde così grandi, la vittoria sta semplicemente nel sopravvivere, venire fuori dall'onda vivo. Ma in condizioni normali c'è paura quando le onde sono potenti, soprattutto quando ti trovi in acque poco profonde e le rocce o il fondale diventano un problema. Ciò che cerchi non è la conquista o l'essere spaventato, ma l'avvicinarti e arrivare vicinissimo al cuore delle onde, dove puoi fare esperienza della bellezza. È molto raro e difficile da raggiungere. Ma è proprio quell'esperienza di bellezza che cerchi, il mantenerti sull'onda surfando bene, sebbene uno dei paradossi è che in quel punto lì nessuno ti può vedere. A volte vorresti avere una foto di te mentre surfi, ma la foto più bella è quella di un'onda, e tu puoi dire, io sono lì dentro, non puoi vedermi. Big beautiful wave, and you say, I am inside that. You cannot see me, but this is the ultimate moment right here, and you cannot see me. Una breve pausa, poi torneremo ancora con l'intervista a William Finnegan e al suo libro Giorni Selvaggi. Perché ti piacciono i giochi di squadra? Si gioca per sé o per gli altri? A che cosa serve un allenatore? Le domande dei più piccoli, le risposte dei più grandi. Sono Federico Taddia e vi aspetto a terra in vista le Olimpiadi spiegate a mio figlio, insieme al filosofo della scienza, Telmo Pievani. Il mito, la vittoria, il limite, la corsa, ogni puntata una parola per raccontare lo spirito olimpico. E non solo, tante storie e curiosità e poi le nostre rubriche come Non battere la fiaccola, le animaliedi e la scienza nello sport. Terra in vista ogni domenica alle 9. Perché l'importante non è vincere, è ascoltare. Anna, lo senti questo clima estivo? Il sole, il mare, la montagna, le città d'arte. Ma allora torna Globetrotter 24? Sì, Valeria, torniamo. E in una versione tutta rinnovata, con ospiti fissi e destinazioni interessanti e, speriamo, poco scontate. Non vuoi anticiparmi nient'altro? Posso solo dirti che i nostri compagni di viaggio sono Salvatore Carrubba e Davide Paolini. Allora dimmi almeno a che ora è l'appuntamento. Ogni sabato e ogni domenica alle 10.30, ovviamente. ovviamente su Radio 24. Il cacciatore di libri. Well, East Coast girls are hit by, really dig those styles they wear. And the Southern girls with the way they talk, they knock me out when I'm down there. The Midwest farmer's daughters really make you feel alright. Parlare del libro Giorni selvaggi dell'americano William Finnegan, uno dei libri protagonisti di quest'estate 2016, un romanzo che, lo ricordiamo, ha vinto il premio Pulitzer nella sezione Memoir. Ed è infatti l'autobiografia di un uomo che ha vissuto per il surf e ha fatto del surf la sua magnifica ossessione, sempre alla ricerca non dell'onda perfetta, ma di un'onda nuova capace di dare emozioni inaspettate. E allora continuiamo a sentire l'intervista a William Finnegan. C'è molta mitologia intorno al surf, ma per chi veramente pratica surf esiste l'onda perfetta? O è una concezione che abbiamo noi che non pratichiamo surf e magari appunto guardiamo dei film anche a volte non fatti benissimo? Well, surfers talk about it too, but they also know in some way that it does not exist. I surfisti ne parlano, ma sanno in qualche modo che non esiste. C'è una specie di ideale platonico dell'onda perfetta. Quando dici oggi è stato perfetto, ma non ci sono gradi di perfezione. O è perfetto o non lo è. Le onde non sono come alcuni elementi immobili della natura. Non sono diamanti o rose, che sono fantastici nelle loro forme. L'onda è un evento in movimento violento, è acqua che si muove molto velocemente ed è l'ultima espressione di un'energia che arriva da migliaia di chilometri di distanza. Tempeste, flussi di corrente, maree che arrivano sulla costa ed esplodono. È un attimo di violenza e ogni onda è diversa e ha una personalità molto forte. È piena di caratteristiche e aspetti particolari a cui tu, come surfista, devi reagire ogni volta in maniera diversa. Non esiste l'onda perfetta. C'è un'onda grandiosa. C'è un'onda grandiosa in modo trascendentale, ma non c'è l'onda perfetta. Esiste un'onda bellissima, eccitante, veloce, potente, sinuosa. Ma la perfezione è solo un'idea. Challenging, exciting, fast, powerful, hollow. Hollow means round wave. But perfect is just an idea. Per alcuni anni lei si è dedicato esclusivamente al surf, ha viaggiato un po' in tutto il mondo dedicando proprio tutto il suo tempo, tutta la sua vita facendo surf. Eppure spesso in questo romanzo, in questo memoir, si pone una domanda: ho fatto bene, ho perso il mio tempo, ho sprecato il mio tempo? Come mai si è ripetuto spesso questa domanda? È tipica di chi si guarda indietro e guarda i suoi 20, 30 anni? O effettivamente è sua personale caratteriale? Well, surfing has a quality different from most sports. It almost requires an obsession, an obsessive commitment simply to learn. Il surf, per definizione, è diverso dagli altri sport. Richiede quasi un'ossessione e un impegno ossessivo solo per imparare. E una volta che hai imparato, cerchi le onde migliori. È un viaggio trovare quelle onde. Ci sono onde fantastiche sulla costa di città molto conosciute, ma sono posti troppo affollati, come Malibu o altri posti famosi nelle Hawaii. Quindi viaggi di continuo per trovare onde e posti remoti che non sono mai state scoperte ed essere il primo a surfarle. Serve molto tempo. Da giovane non me lo sono chiesto. L'ho fatto e basta, e l'ho fatto per tutto il tempo che ho voluto. Avevo altri interessi, come la letteratura, ma sono riuscito a combinare le due cose. Surfavo di giorno e leggevo e scrivevo la sera. Non c'era un conflitto. Fino a quando, poco dopo i 20 anni, ho finito la scuola e ho deciso di non continuare verso una specializzazione. Sono partito alla ricerca delle onde. L'ho fatto per 4 anni. Sono stato nel sud del Pacifico, in Asia, in Australia. E in quel periodo, prima dei 30, ho cominciato a farmi delle domande. Che sto facendo? Cosa voglio fare? Perché ovviamente stavo evitando di fare scelte da adulto. Quindi da quel momento c'è stato un conflitto. Nel frattempo sono diventato un giornalista professionista e uno scrittore. Avevo un lavoro, ma volevo continuare a surfare. E ho cercato di tenere la cosa sotto controllo e non fare del surf il centro della mia vita, perché non è una cosa a cui ho mai pensato. Ho semplicemente cominciato a farla e poi a farla e continuato così. Ho tanti diari di quell'epoca, molti più di adesso, ma c'è molto poco surf in essi. Annotavo pensieri sulla letteratura, sui libri che leggevo, le mie idee, le mie storie, le mie convinzioni politiche. Il surf era soltanto ciò che facevo. Dettagli sul surf e sulle onde li ho ritrovati nelle mie lettere ad amici e familiari, a cui ho chiesto di restituirmele. Contengono particolari molto specifici sul surf. A volte li scrivevo ad altri surfisti. Credevo fosse interessante. Per me, però, non lo era. Era solo quello che facevo. Quindi, questo conflitto è arrivato dopo, a ridosso dei 30 anni, quando ho pensato a farmi una carriera. And so this conflict came in later, maybe when I was about 25 or 30, and trying to have a career. Eppure c'è stato un periodo in cui il surf per lei era un'ossessione. Lei ripete spesso in questo libro che i veri surfisti non definiscono il surf come uno sport, ma come uno stile di vita, un modo di essere. Adesso a 60 anni, praticando appunto comunque ancora il surf e amandolo moltissimo, è riuscito a prendere distanza dal surf? O ancora quando surfa si sente nello stesso modo di come si sentiva 20 anni? It feels very much the same. Unfortunately, one's abilities deteriorate with age. Mi sento allo stesso modo, come quando avevo 20 anni, ma purtroppo le abilità si vanno indebolendo. Io so cosa fare, ma il mio corpo ci riesce? Ho iniziato a surfare su onde più grandi perché per me era più facile. Si tratta solo di sapere i fondamentali. Non hai bisogno di essere rapido né molto forte. Se sai come surfare, riesci a cavalcare l'onda. Se impari a farlo da giovane, non dimentichi come si fa. Ma la parte più difficile è capire l'oceano, leggere le onde quando stanno per arrivare, e con molta esperienza puoi riuscirci. Puoi farlo anche a 60 anni. Io riesco a capire cosa fare. La domanda è, riesco a farlo? Riesco a cavalcare quell'onda? Se l'onda è grande, riesci a dissimulare la mancanza di abilità e velocità perché devi solo applicare le regole base. Your lack of strength and quickness because it's just really the fundamentals on bigger waves. In questo romanzo si usano anche dei termini tecnici sul fare surf. Io per esempio non so fare surf, eppure nonostante questi termini tecnici, nonostante ci siano diverse pagine che parlano proprio di onde, della forma dell'onda, dell'energia dell'onda, sono rimasta catturata da questo libro. Come ha fatto ad equilibrare la parte tecnica e la parte romanzata? Si è posto il problema di chi potesse essere il lettore di questo libro? Yes. I had in mind a reader like you. È un onore. Somebody who can imagine, but needs to learn. Avevo in mente un lettore proprio come te, qualcuno che riesce a immaginare, ma ha bisogno di imparare i termini tecnici di come funzionano le onde e l'oceano. Quindi ho cercato di introdurli con una spiegazione, lasciando che la storia continuasse senza fare un glossario, senza lezioni formali, solo dicendo a un lettore generico: ecco cosa significa. E così, piano piano, si diventa capaci di immaginare le scene nell'oceano. Non sei confuso, non ti perdi e capisci perché ti sto raccontando la storia, che sta succedendo qualcosa a livello psicologico o emotivo. È stato un gran bel lavoro. Mi ci è voluto molto tempo, proprio perché ho tentato di accompagnare i lettori all'interno di questo mondo specializzato. Le persone non si sono mai immaginate il surf. Lo hanno sempre visto in TV, nelle pubblicità, nei video online, ma non si ha l'idea di cosa sta realmente accadendo cosa le persone fanno in acqua, cosa pensano, quanto lavoro di testa c'è per capire l'oceano. Ho voluto portare le persone oltre quello schermo. È un processo lento all'inizio, ma dopo è come essere dietro quello schermo e posso raccontare la storia. And it's a slow process at first, and then I feel like we're behind, and now I can tell you the stories. Questo era William Finnegan, premio Pulitzer 2016 per il libro Giorni Selvaggi, pubblicato in Italia da 66 and a Second, con la traduzione di Fiorenza Conte, Mirko Esposito e Stella Sacchini. Un libro dedicato al surf, molte pagine sulle onde, sulla loro forma, ma che vi assicuro appassiona anche chi di surf ci capisce poco o niente. Insomma, il surf è in fondo una metafora, è più un libro sul senso della vita. Vi ricordo che ancora per una settimana Il Cacciatore di Libri va in onda dal lunedì al venerdì tutte le sere alle 23.45 e sabato e domenica alle 10 del mattino. Comunque trovate tutte le puntate su radio24.it. Grazie in regia Filippo Aureggi, una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.